la prostata per curarla bisogna trombare. Guarda, Cruciani ha una prostata meravigliosa che viene esibita ai congressi medici per dire come si deve tenere la prostata. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cruciani, fatelo dire, con Parenzo al top come questi ultimi giorni, la trasmissione è al doppio top, triplo top. Signor David Parenzo, la parlo dalla sinistra della zanzara, basta con queste cagate dell'onda blu, l'onda marittima sulla 7. Noi ti vogliamo sangue e merda alla zanzara. David. Grandi ammiratori parenziani, grandi ammiratori parenziani. Gentaglia. Ma come gentaglia? Gente che ti esalta. Ma gente che ti esalta. Volgare, che alle 18:35 dice del parolacci. Ma che ha detto solo sangue e merda? No, ha detto. No, non mi piace. Ma come? È uno che ti ha esaltato e non ti piace? No, non l'ho capito. Non ha esaltato. Ma come no? Cretino, sbaglia i nomi delle trasmissioni. No. L'ha fatta apposta quella storpiata di nomi. Chiudiamola qua. Ma come chiudiamola qua? È meglio, è venerdì. Secondo me la gente così allora, un bel ricordo della settimana. Chiudi qua, dai, grazie. Dice, chi dopo, ci ha i vecchi, dopo i vecchi di ieri sera non si può fare nient'altro. Sì, non puoi fare più niente. Sì, posso, no, tu puoi sempre fare di peggio, poi chissà cosa puoi fare. Però io dico una cosa: fino a pochi... in diretta prima della fine di quest'anno di trasmissione, sicuramente. Faccio io. Ma farai l'amore in diretta? No, beh, ormai già fatto alla radio. Hai insegnato come si fa la popò, la pipì, come ci si lava, hai insegnato ai nostri figli a fare la pipì nel lavandino. A proposito di figli, ecco. A proposito, fino a pochi secondi fa era in studio mentre registravamo alcune cose la figlia di Parenzo. Vabbè, ora, guardandola in faccia, tu un giorno dovesse fare la scelta di Malena la Pugliese, ma neanche pensarlo. Te la sei posta qualche... Ti ho già detto ieri. Allora, Malena la Pugliese ieri, oggi... guarda che in macchina, quindi adesso ascolta. Ti ho già detto ieri, sì. Ti ho già detto ieri che non accadrà mai. Sì. Qualora accadesse, mi verrebbe un infarto. Cioè starei male, starei malissimo. Ma come milioni di persone che ascoltano per bene e che sono con me. Poi ci sono 0,2% di miserabili, di personaggi inutili, feccia, gente che ha i margini della società. Compreso me allora, compreso me. Assolutamente. Compreso me. Ne sei il capofila. Che telefonano e dico: no, ma è normale, evviva, mia figlia fa la vende il benissimo, normale. No, nessuno lo dice, nessuno. Sì. Solo io lo dico. No, tu e lo 0,2 no, di una io società sostengo questa malata, cosa. Perversa. Ma la maggioranza delle persone la pensa come me, ci no. Starebbe malissimo, no, malissimo. No, io starebbe. Dico una cosa, no. Le scelte libere anche dei propri figli, sì, persino quelle più estreme, vanno accettate. Sì, bravo, ti altrimenti che libertà è? Non te lo auguro. Dov'è la ma libertà? Dov'è la libertà? Se uno non accetta la libertà della propria figlia di fare anche la puttana. Dov'è la libertà? Dov'è? Come no? Certo. Io accetterei tranquillamente. Ecco, tranquillamente. Ma per carità. Non è vero. Allora, perché non ci devi credere? Ma scusa, carità, perché non ci devi credere? Ma non ci credo neanche se lo vedo. Vabbè, ma perché non è normale? Non è normale. Ma scusa, ma come io lo accetto degli altri, lo accetto anche con me stesso. Ma se io lo accetto degli altri, perché ma non lo dovrei accettare? È più facile dire ma sì, tanto. Poi quando ti capita ti voglio vedere. Allora ragazzi, a Roma ci sono due nuovi assessori. Ne è andato via uno, ne sono subentrati due. Spacchettamento. Lasciamo perdere le cose politiche che ci sono dietro. Uno pare che sia un fedelissimo della Raggi. E vabbè, d'accordo. Vabbè. Un altro sembra invece... Il sindaco è la Raggi. Assolutamente. Che notizia no, sarebbe. No, vabbè. No, però c'è il fatto che l'altro invece sembra essere stato imposto. Sembra essere stato imposto quello alle partecipate. Hanno spezzettato in due. Le partecipate sarebbero tutte le aziende dettagli dove c'è il comune. Politichesi, ce la fai. A me lo dici. Ma a me lo dici. Niente. Sì, la cosa curiosa è che questo assessore che si chiama Colomban. Sì, ottimo. Colomban, Veneto, bravissimo. Esatto, ottimo. un Veneto a fare la... Già c'è stato un precedente, amici miei, già c'è stato un precedente. Un signore da Torino, vi ricordate, del PD, che è andato a fare l'assessore ai trasporti a Roma. Adesso prendono uno dal Veneto, anche se questo è a capo di una multinazionale, di una multinazionale, e viene a fare l'assessore a Roma alle partecipate, il signor Colomban. Ma non c'è solo questo, il fatto che un Veneto va a fare l'assessore a Roma, che forse è una cosa buona, no, da un certo punto di vista, sempre se conosce i problemi della capitale. Però signor Colomban una volta mise a sua disposizione un castello, perché tra l'altro è un milionario questo qua. Perché anche Grillo è un milionario, però. Appunto, a disposizione, senti questa cosa qua, cioè sostanzialmente questo qua è a favore dell'indipendenza del Veneto. Insomma, vabbè, va benissimo, per carità. Grazie ancora, grazie al coraggio di Indipendenza Veneta. Io metto a disposizione il cazzo e il brano se questa azione viene all'interno delle leggi. Io spero che si riesca a mettere sotto un unico gonfalone, diciamo, di San Marco tutti questi movimenti e, perché no, magari riuscire a dialogare con quelle forze politiche che sono non macchiate di corruzione o di peggio. Allora, ieri sera a Piazza Pulita queste voci prese dalla riunione dei 5 Stelle di domenica scorsa, però chiaramente lì sono dei, non so se si possono dire, dei militanti dei 5 Stelle. Comunque, 5 Stelle a Palermo su crocette ai gay, sentite. Crocetto è andato in ospedale a spese nostre a farsi sbiancare il culo quella checca spudorata. Io non ho niente contro le checche. Io non ho niente, no, non mi vergogno. Io l'ho letto, si è fatto sbiancare il culo. Dove l'ha letto? L'ho letto. Dove l'ha letto? L'ho letto sulla rete, su tante cose. Dove l'ha letto? Qual è la sua fonte? Indagate e vedete che è vero. Dove l'ha letto? Dappertutto. Su Zezé un grande. Il grillino che dice si è fatto sbiancare il culo, crocetta. Ancora. Ha detto del presidente della regione che è un omosessuale, che è una checca. Ma non c'ho niente contro le checche, ma con le spudorate sì. Come lo è anche quell'altro che c'è in Puglia. Come cazzo si chiama? Dimmi come si chiama quello lì, che non mi viene in mente. Quella vendola che è un'altra checca spudorata. La mia è verità. La mia è verità. Andate lì a vedere le verità. Silva era dello Vendola, le checche spudorate. Militanti grillini, militanti grillini presenti lì. Poi magari non hanno la tessera, perché non è che questi hanno la tessera dei partiti, però erano lì. Intanto abbiamo detto, no? Tanto l'abbiamo detto. Tornato il governatore del mondo, assolto ragazzi, assolto De Luca, avevamo ragione noi, il governatore del mondo è limpido, ha le mani limpias come si dice, no? Le mani limpide, pulite, il governatore del mondo, pulite. Senti, impresentabile a testa alta. Quello che non va bene è la quantità di farisei, di ipocriti, di farabutti che vivono nei salotti televisivi. E così ci si è permessi di montare una campagna mediatica infame dal titolo Gli Impresentabili. Gli impresentabili si possono presentare a testa alta, gli impresentabili. Gli altri non so se possono presentarsi a testa alta. Quelli che hanno, per ragioni di pura strumentalizzazione politica, di pura aggressione politica, calpestato la dignità di altri esseri umani. E a chi si rivolgeva, caro Parenzo, in questo caso? Alla signora, dillo, alla signora. Non lo so. Rossi Bindi. Cosa fai? Ce l'ha... Non dici niente sulla Bindi? Devi invitare in qualche salotto televisivo, la Bindi? Più di qualcuno. Non vuoi dire una parola sulla vergogna? No, la Bindi. Vergogna niente. L'onorevole Bindi, presidente della commissione antimafia, ha svolto da presidente della commissione un lavoro straordinario. Ma sei veramente una vergogna, lo sai? Altra cosa sono le sentenze dei magistrati, Ha detto una cazzata. Altra cosa sono le sentenze dei magistrati. La commissione antimafia non ha, ma non ti voglio tediare, ma, alcun potere giudiziario. Ma non dire, nel senso ha, di detto, ha detto che è impresentabile De Luca. Ma, è stato assolto. Ha detto che era impresentabile. Per quello che ha detto che era impresentabile. Per quello che all'epoca si sapeva, dai, la commissione non ha fatto altro che certificare la sua impresentabilità. Dimettere immediatamente. Scusami, dimettere. Per gli elementi, vergogna, che avevano, basta, all'epoca, vergogna, in loro possesso, mamma, i membri della commissione antimafia. Difendi l'indifendibile. Difendi, ma no, l'indifendibile. È la logica. Non c'è nulla da difendere. Ma non c'è nulla da difendere. È la logica. Il tuo all'epoca amico, quelli Chico erano impresentabili. Vabbè, e Chico Testa contro Paragone. Ma abbiamo, sappiamo tutto, dai, chiudi, no, aspetta, non è che siamo testa nati con... ieri, Chico... poi c'è l'aggressione a Sara Giudice di Piazza Pulita, aspetta, aspetta, parla aspetta di questo, parla, certo, di questo, dei banditi della Magliana che alla luce, certo, del sole, mentre il sindaco era su un tetto del comune, veniva aggredita da dei bifolchi criminali, parla di questo, ma chiudi, io non voglio più parlare di me, ma chiudi, ma come si fa, ma è aspetta, vergognoso, aspetta, questo cosa modo, è vergognoso, cosa non lo so, in generale, cosa dico che è vergognoso, sai, cioè, come quelli che chiamano alle volte la dipendenza, dicono, ma è vergognoso, cosa, ma dai, è vergognoso, basta. Quando tu dici vergognoso, già hai detto tutto, no? Basta, basta, dai, dai, al bar, no, al bar. Prima ero andato lì al bar, ho detto, allora, ma è vergognoso. Dico, cosa, scusi? Ma no, Renzi, sì, ma cosa? Ah, vergognoso, dai. Ma lo dica lei, lo dica. Dico, cosa devo dire? Ma dica, vergognoso. Ma è vergognoso. Ma è vergognoso. Vedrai che chiamerà qualcuno adesso. Carmen da Verona, sto coglione di Giovanni da Napoli, tutta sta gente che chiama. Vedrai che dirà, ma quello è vergognoso. Ma cosa è vergognoso? Cosa? Cosa? Testa Paragone, sei uno straccione. Sì, ma dai. Sono in grande deperimento questi mercati, ma non perché c'è la Bolkestein, sono in grande deperimento perché ovviamente una struttura alimentare moderna ha bisogno di altre cose, cioè mi dicevano il ha detto Paragone che non so. No, ma questo è il mondo che piace a Chicco Testa, c'è la regola. Posso dire a Paragone quel che penso di lui? No, lo diciamo un'altra volta. Tu non puoi permettere di dire che questo è il mondo che piace a me, d'accordo? Questo è il mondo che piace a te, l'hai detto tu prima. Come hai detto te prima. Ok, benissimo. Cerco di cambiarlo con delle cose concrete. Posso dire una cosa? Chiedo una cortesia personale a Chicco Testa e Gianluigi Paragone, che conosco entrambi bene. Io credo. Allora, posso chiedervi una cortesia? Avete idee diverse e questo è super lecito. Ascolta Cruciani, ma mi è venuta in mente una cosa. Perché non sostituiamo il traffico automobilistico con delle news sul traffico di stupefacenti? Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta La Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. A proposito della Bindi, voglio ricordare Sgarbi di ieri, ricordiamolo sempre, imperituro, no, imperituro. Io sostengo la legittimità del burka, perché come le nostre suore di clausura si mettono come vogliono e se vanno a fare il bagno lo fanno vestite o quasi, e d'altra parte è una cosa che andrebbe precettata anche a Rosy Bindi. Vuoi vedere Rosy Bindi in bikini? Cioè, falle mettere il birchini, è talmente chiaro. Allora, avvertendo i signori utenti della Zanzara che su qualche portale di vendita di oggetti tipo Amazon si vende uno sgabello posturale da gabinetto per posizione più comoda e risultati migliori e più salutari. Cosa dimostra sta roba? Raccomandato da gastroenterologi, potete andare anche su Amazon al modico prezzo di 35 euro, cioè grazie a 35, versando per 35 euro e comprando semplicemente uno sgabello posturale da gabinetto per posizione più comoda, 35 euro e cagate meglio. Dunque non c'è solamente lo squatty potty, ci sono anche altri prodotti. Stefano da Milano, vai Stefano. Pronto. Dimmi Stefano. Pronto. Dimmi. Senti. Sono in strada, si sente un po' di rumore. No, io volevo andare fuori tema. Quale tema? Io avevo assistito alla trasmissione vostra, come sì, faccio ogni sera. Sì, sì. Chi è che ha aperto qualche cosa? David, dai. No, non lo so, no, tutti e due. Siete stati dello stesso livello ieri sera, in un intervento. Quando ha chiamato, o avete chiamato voi una persona anziana. Allora? Chi c'era? C'era di fianco un migrante che faceva rumore. No, di fianco, non sotto, c'era nessun migrante. Nell'appartamento sì, sopra, affittato sì, sotto sì, dal sì, fratello. Ok, quindi mi sta raccontando meglio l'episodio perché mi sono collegato in ritardo. Allora? Però quando mi sono collegato, e voi incalzavate sia lui che lei, entrambi, sì, telefonando continuamente, dopo lui vi ha detto a un certo momento che la moglie aveva avuto due tumori. Sì, ma non lo so cosa ha avuto la moglie, per carità. Ma te lo sto dicendo allora? Io. Però il fatto poi di insistere continuamente, sì, di ridere, controbattere... Ma non c'entra niente. No, lascialo parlare. No, non c'entra niente, non sta dicendo una cosa falsa. No, non è falsa, no, tutta la registrazione. Probabilmente non ti risenti a volte. Ma qual è il tuo problema? Non ho capito. Qual è il tuo problema? Il problema è che a volte, quando sei a che fare con le persone, sì, ok, bisogna anche cercare di capire. Senti, Stefano, a me non me ne può fregare di meno. A te interessa, ci sono due persone che protestavano. A me non mi interessa lo stato di salute di queste persone. A me interessa quello che esce fuori. Ma scusa, ma mica sono il medico. Ma mica faccio il medico io, scusa. Non faccio il medico. No, Stefano, fai, queste due signore. No, il medico sicuramente non lo faccio. Non so quello che faccio, ma il medico sicuramente meno no. Meno male, voglio dire. Però beh, certo, meno male. Tu che fai invece? Che cosa fai tu? Che cosa fai tu? Faccio, io faccio un lavoro. No. Fai il medico? Un lavoro, no. Allora, no, meno no, male anche, anche per te. Meno male anche per te. Quanto meno dimostro più sensibilità. Ma cosa? A parte che a me non me ne frega sensibilità, poi, non sensibilità. Comunque, non è questo il punto. No, è uscita senza, fuori la notizia che questi qua si lamentavano per gli extracomunitari sotto. A me, del resto, non me ne può fregare di meno. Ma sono d'accordo, però incalzare e ridere... E no, che facciamo noi? Stiamo lì... Ridendo. Ma scusa, Stefano, ma che siamo qui a pettinare le bambole? Siamo qui a pettinare le bambole? Bastava lì c'è, senza ridere, ma lì c'è un'evidente situazione familiare incredibile. Non possiamo ridere, non possiamo ridere. Ma qua il problema non erano i migranti. Dai Stefano, basta con questi moralismi ridicoli, su, ma non rompeteci i coglioni, dai. Non è moralismo. È venuta così. Ti sta bene? È venuta benissimo, ti sta bene? No. Chi se ne frega, a molta gente è piaciuta, arrivederci e grazie, ciao. Allora, la famiglia Fracca Toffano, dalla provincia di Vicenza, ieri era anche dalla vostra parte. Cioè era a dalla vostra parte. La signor Del Debbio, senti il signor Oscar, mitologico Oscar. Mattina, senza suonare il campanello, entra un camioncino. Ma cosa fai qua tu? E lui mi guarda in aria e dice: io abitare qui, cooperativa dare affitto. Fanno sempre i loro comuni come che fossero casa sua. Hanno anche addirittura adesso, non so se sono tamburi o sono radio, non si riesce a dormire, ci rimettiamo la salute. Hanno anche i tamburi. Vabbè, questo però uno può anche rompere i coglioni con i tamburi, no? Però se ci sono i tamburi uno chiama la polizia locale e fa intervenire. Ma sì, i tamburi. Ma i tamburi, ho capito, i tamburi. Allora Oscar, senti, ora dormiamo in cucina. I primi due giorni magari fa abituarsi, sono stati bravi, diciamola così. Però voi siete preoccupati? Però dopo ci siamo preoccupati, sì. Ma adesso dove andate a dormire, scusate, perché visto che non state più in casa vostra? Oscar, dove andate a dormire? Non si dorme. Io, per far contento mia moglie, che è molto ammalata, è stata operata al seno, sì, e tumore, la portavo il materasso in cucina. Allora, ragazzi, il fatto che questi qua stiano male, ovviamente a noi ci interessa. Cioè, quando ce lo raccontano ci interessa. Ma la questione non è che stanno male. La questione è che litigano col fratello di lui. Cioè, di lei, anzi. Cioè, litigano col fratello di lei, che gli ha messo in casa apposta, secondo me, gli extracomunitari per farli incazzare. E lì noi ci divertiamo come matti. ci ammazziamo dalle risate. Qual è il problema? Dov'è il problema? Non si può ridere su queste cose, su queste persone qui? Pronto, parlo con Satana? Ah, è Peppino Cruciani? Vabbè, uguale. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. JP Morgan Asset Management vi presenta La Zanzara. Chiamo Del Debbio e tutti i giornali e gli dico che per colpa di Parenzo che mi disturba mi sto ammalando. Parenzo, ma vai mona! Allora facciamo riassunto, caro Parenzo, la grande saga della famiglia Fracca Toffano, Toffano che dir si voglia, non so come si pronuncia esattamente. Siamo a Cresole, provincia di Vicenza, piccola frazione, Cresole. C'è una palazzina, la parte di sotto viene affittata da parte di un signore che si chiama Gian Pietro Fracca. La sorella abita al piano superiore insieme al marito che si chiama Oscar. Non so se avete capito. A un certo punto litigano e la parte inferiore di questa palazzina viene affittata a una cooperativa, la quale l'affitta poi a degli extracomunitari, cioè paghiamo noi, in sostanza, paga lo Stato. Questi, secondo i signori che abitano al piano sopra, fanno rumore e dicono ci siamo ammalati per quello. Che problemi vi danno questi immigrati a te e a tuo marito? Non è che danno problemi veri e propri, è che disturbano. Cioè, in che senso disturbano? Nel senso che loro fanno la loro vita chiassosa. Sì. Ok? Sì. Da mezzogiorno alle due, che dovrebbe essere ora di silenzio, giusto? E invece che fanno? Urlano, gridano, tutto così. E poi? Io stesso la sera. Lo stesso la sera. Ma e voi chi è che urla? Che ma cosa dice? Ma lei ha paura di scendere le scale? Perché voi state al piano di sopra, dove state? Noi stiamo al secondo piano. Cosa vuoi che io vada giù e mi incrocio con due negri? Ma cosa sta dicendo? Ma come? No, quelle a casa sua gli piazzano gli immigrati sotto casa che ma fanno casino. Come gli piazzano? Ma che casino? Adesso ha già detto che hanno già smesso. Su, come degli italiani in chiasso. Chi sta parlando? Ma Parenzo, chi sta parlando? Parenzo. Sto parlando io, signora. Sto parlando io che sono italianissimo, padano, veneto, padovano. E allora se li porti a casa lei. Eccola là, immaginavo. Okay. Eccola ha ragione, se li signora, porti ha okay. Ragione. Ok, oh, meno male. Quanti anni ha lei, signora? Quanti anni ha? 66. Ma è incazzata nera, Parenzo, per questa cosa qua, la signora. Ma scusa. Ma tiri fuori un po' di pietà cristiana, invece, dai. Pietà per pietà chi? Pietà cristiana, che la tirino fuori i preti prima. Dai. Ok? Quella vuole vivere in pace. La nonnina padana è arrivata. E tutti quelli che hanno le case. Ma vuole vivere in pace, la signora, scusa. Ma chi le rompe? Vuole vivere, se lei è tranquilla. Ma chi è che le rompe le scatole? Io e mio marito, problemi di salute, ne abbiamo da vendere. Ma è vero, è vero che lei ha avuto problemi di salute anche per questa vicenda? Io sono esaurita. Esaurita. Mio marito mi dispiace. Pure. Sono esauriti, ci hanno immigrati sotto e sono esauriti. Parenzo, cosa vuoi dire? Mi dispiace, sparategli dalla finestra. Dal 2014, mamma mia, da quando mio fratello e mia cognata hanno fatto il cazzo che hanno voluto. Attenzione. Con tre cani.

sbagliato. No, scusami Paola, calma. Perché calma. Ha sempre detto in falso. Calma. Ok. Sì, d'accordo, però calma, molto dobbiamo stare calmi. Maria Pia ieri al telefono mi ha detto che quello che avete detto voi sugli immigrati, sì, faranno qualcosina, qualche cena, ma non è vero niente, non fanno nessun rumore, nessuna cosa grave. Lei non è qui a sentirli, ok? Non è lì. Poi ha detto che non è vero che ha mandato questa lettera dicendo vi mando gli immigrati dentro casa. No, la vuoi in copia? Leggimela un attimo, leggimela. La vuoi? Leggimela. Porca puttana, ma smettetela, eh. No, ma sto chiedendo perché... No, ma c'è una tensione in quella famiglia, guarda, dai, secondo me... Dai, Cruciani! Paola, leggimi sta lettera, perché io devo arrivare a un punto della situazione, Paola. Leggimi devo sta lettera. Devo arrivare? Te devi arrivare. No, no, ma... noi. Ma leggimi un po' sta lettera, devo capire se è vero o non è vero che questi qua vi hanno minacciato di mettere gli stranieri dentro casa, perché è importante... Allora, 26 aprile. Ecco. Ok? Sì, dimmi. No, che interesse è stato? No, aspetta, dimmi. Posso dire? Vai pure. Sentiamo. Allora, a questo punto, tutto ciò ormai... premesso, visto che continua a solo perdere, sì. Confermo la volontà di andar via con i nostri tempi e modi, cioè quando troveremo una sistemazione molto migliore di questa. E vabbè, quello è legittimo. Poi? È legittimo? Vabbè. Di andare via è legittimo, poi non so, dov'è sta minaccia di mettere gli immigrati? Che c'è scritto poi? Posso andare avanti? Vai avanti, Paola, vai avanti. Vendendo o affittando a chi che sia, e non necessariamente a gente per bene. Questo. A tal proposito, ho già un paio di idee. Ah. Considerato che per qualsiasi cavolata Allora? E poi fare tutto quel lasciamo perdere perché queste sono cose private e vabbè poi la più attuabile che ho già l'idoneità da parte del comune pronta per essere portata in prefettura con cui ho già preso contatto, è quella di piazzare la bellezza di 9 persone, come risulta dall'allegato, e tanto per essere chiaro, saranno profughi, mamma mia, in grassetto e sottolineato, cioè vi ha minacciato, vi metto i profughi dentro casa, chiaro, esatto, mamma mia, ma che gente, un'altra, posso andare avanti, vai avanti per carità, un'altra è quella di vendere o affittare a cinesi o di altre nazionalità. Vabbè, i cinesi è brava gente, però che potrebbero inserire persone come quelle dell'articolo del giornale che allego. Cioè, i banditi, che sono? Banditi, gente di... Cioè, okay, praticamente, praticamente, Paola, vi hanno detto vi mettiamo gentaglia a casa sotto casa, questo è. Esatto. Mamma mia, comunque Maria Pia ha detto che è tutto falso questa roba qua, tutto falso. Ma che vado a cagare. Aspetta un attimo che mi chiamano al telefono, un attimo che ti richiamo, ferma lì, ti richiamo tra 5 minuti, aspetta un secondo, hai detto bene, hai chiarito la situazione. Velocità. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro, scopri i nostri servizi su ggroup.com. La Zanzara. Doppietta con tipo sposata fatta, pisciatina nel lavandino del motel fatta, scoreggia appena entrato in auto fatta, dito fisso nel naso ad ogni semaforo fatto, ed ora ascolto la Zanzara così per rassicurarmi di non essere l'essere più spregevole del mondo. Ragazzi, però non è che noi abbiamo insegnato tutto questo, Davide. Sì, questo è quello. No, tu hai. Io ho provato ad arginare, ma non ce l'ho fatta. Tu hai insegnato tutto questo. Ah, no, ma sembra che noi abbiamo insegnato tutto questo. Sì, certo. Beh, che è questo? No, ma ragazzi, ma non è che così. Cosa resterà un domani di questo programma? Ma che stai scherzando? Resterà sicuramente se tu andrai a vedere tra 30 anni i tuoi nipoti. Guarda, oggi dei giornali hanno addirittura. Ti dico di più: tra 40 anni i tuoi nipoti, che saranno sicuramente drogati, prostitute, che faranno la popò. Sì, questo va benissimo. non è vero. Che faranno, sì, che faranno la popò in piedi, che si metteranno dietro del naso e che saranno sporchi. Questo è quello che succederà. Tu lo vuoi? Perché per te va bene così. No, ma non è vero. Gli chiederanno cosa faceva il nonno Giuseppe. Ah, dice, guarda, nonno Giuseppe faceva la televisione, alla radio, in cui predicava di fare la popò in un certo modo, di fare la pipì nel lavandino, di non lavarsi, eccetera, eccetera. Questo rimarrà. Ma sei impazzito. Lo sai che qualche giornale ricorda che oggi, un anno fa, qualche giornale, oggi lo ricorda, pensa, un anno fa, abbiamo praticamente con lo scherzo Paglia Renzi è iniziata la frana di Marino. Cioè, abbiamo contribuito a far cadere la giunta Marino oggi, un anno fa, perché oggi, un anno fa, facciamo lo scherzo con Monsignor Paglia, anzi Renzi, che chiama Monsignor Paglia, capito? Sì, sì. Adesso purtroppo non possiamo mandare in onda per motivi nostri. No. Perché le autorità civili, politiche e giudiziarie ci hanno un po'. Ci hanno un po' limitato, come dire, no? Meglio. Ma che meglio, vaffanculo, va. Allora, la situazione a... com'è cazzo si chiama sto paese? Cresole. Bisogna andare... in quella famiglia lì bisogna andare i caschi blu dell'ONU, secondo me. Bisogna tirarli via dalla lita. Sì. Allora, chiamiamo Paola, che eravamo rimasti in sospeso, Chiamiamo Paola, siamo rimasti in sospeso. Chiamiamo Paola. La Paola, come sapete, è molto incazzata con gli extracomunitari che vivono sotto. Ma no, deve essere incazzata con i suoi parenti, non con gli extracomunitari. È incazzata pure con i parenti. Paola? Non risponde, cazzo. Va bene, ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Napoli, Giovanni, vai. Ciao Cusani. Dimmi. Vorrei parlare in merito della questione dei migranti che vengono trattati con questi famosi guanti bianchi. Sì, io penso che alza la voce però, amico mio, se no non si sente una mazza, dai, forza. Io penso che questo trattamento che dà lo Stato italiano a queste persone sia il più vigliacco che si possa immaginare. Cioè, in che senso è più vigliacco? Perché vengono lasciati lì senza fare un cazzo dalla mattina alla sera. Questa non è vita. Lo sai, ho parlato con un signore, che è un signore che è stato ambasciatore del Belize in Italia. Un signore del Belize in Italia, meraviglioso, posto fantastico, uno che ti piacerebbe molto, che ha detto: questi qua devono lavorare. Cioè, devono raccogliere le patate, infatti, devono andare nei campi a lavorare. Infatti, tu non lo dici. No, ma nell'assenza di non fare alcuni... non dovrebbero arrivare. Quando non arrivano, quando arrivano, comuni, dovrebbero lavorare. Alcuni comuni, infatti, li fanno lavorare. Vabbè, lavorano, Giovanni, che tengono le aiuole, che puliscono. Queste persone scappano da una schiavitù per entrare in un'altra schiavitù, quella dello Stato italiano, che non gestisce bene questa politica. La politica sociale dello Stato italiano in confronto di queste persone è completamente sbagliata. Vabbè, adesso che fai? Che fatta? La dichiarazione sembri no, un no. politico del PD. Che no, la no, politica tutto sbagliato. Crea solo malcontento, Comunque, ragazzi, oggi leggo sui giornali: ai profughi 35 euro, ai ancora. Terremotati solo 25. Ma che cosa vuol dire? Ma su quale giornale lei? Prendi Libero. Prenditela con Libero. Ai profughi 35 ma euro. Ma che paragone ai terremotati solo 25 euro. Ma cosa vuol dire? Ma non vuol dire niente. Sono cifre. Ai profughi 35 euro al giorno. Ma non si paragonano le patate con le acciughe. Si ai terremotati solo 25 euro. Ma non vuol dire niente. Ma sono dati di fatto. A parte che non è vero. Cosa vuol dire 25 euro? Ai terremotati giustamente è stato sospeso il mutuo sulla casa o sull'esercizio commerciale qualora ce lo avessero. Ci sono una serie di agevolazioni giuste che sono state date alla popolazione in difficoltà, ma non sono paragonabili. Si possono paragonare, gli euro si possono sempre paragonare. Per mantenere i profughi 35 euro al giorno, i terremotati 25. Questo scrivono, scrive il signor Bekis, ci dobbiamo credere. Ma bene, ma Bekis è un ottimo, e allora benissimo. Che vuoi? Però non, è un paragone sbagliato, non vuol dire niente secondo me. Va bene, non vuol Andrea dire d'ancora, vai. Ciò Andrea. Non toglie nulla al valore di Bekis, al grande valore di Bekis. Andrea, dimmi. Sì, io ho un problema grosso, Cruciani. Sì. Io quando vado in macchina, o intorno alle 2, 2 e mezzo, o intorno a quest'ora qua quando esco dal lavoro. Alle 2 e mezzo c'è il programma del calcio che mi fa due coglioni. No, è uno dei programmi, è uno dei programmi migliori della radio italiana. Poi? No, ma non è migliore. Vabbè, a te non ti piace il calcio, a te non ti piace il calcio, sono cazzi, no, cazzi. Vergognati, vergognati. Vabbè, ma che vuoi da me? Ma che... a parte che stai parlando, a parte che stai parlando col viva voce, primo. Stai parlando no, col sì, auricolare, viva voce, tutto, auricolare sicuro. Ti assicuro di no, niente. Vabbè, poi telefono il cazzo. visto che pure voi mi avete fatto due palle alla sera. E allora cambia radio e non ci rompere il cazzo, non capito? Non posso cambiare radio. È peggio per te, che vuoi da me? Io voglio che... Ti chiedo per favore, il prossimo palinsesto, sì, fatti mettere un altro orario, no? Un orario più comodo a te, alla mattina, pomeriggio alle 3 alle 4. No, no, no. Non perdo il cazzo alle 6 e mezzo. Ciao, dai, Davide da Parma, dai, Davide. Davide. Pronto? Dai, dimmi. Dai, abbassa sto cazzo di radio, su, dai, forza. Stai calmo, mamma, quanto sei aggressivo. Ma non so aggressivo, figlio mio, ma sempre le stesse cose, bisogna ripetere, che siamo alla sigla. Vabbè, dammi il tempo che la passo. Vai. Allora, senti, io volevo fare una domanda al, non so se chiamarlo signore o dottor Parenzo. No, Parenzo. Eccolo qua, Parenzo va benissimo. Va Parenzo, dimmi. Okay. Il quale Parenzo, senti, si riserverà di decidere se interloquire con lei oppure no. Ma adesso non è che sei che... Sì, questo è un tuo problema. No, io accetto qualsiasi... Io accetto qualsiasi Parenzo dice. Si riserverà nei prossimi secondi di decidere se interloquire con lei oppure no. Questa è la nuova linea. Io comunque io devo chiamare ogni giorno Annuna e portartelo accanto, perché ti ha fatto veramente bene Annuna. Cioè, il signor Annuna, deve stare ogni giorno collegato con la Zanzara, in modo che ti carica no, pallettoni. No, mica mi carica, sì, Annuna, a pallettoni, a pallettoni. Mio amico carissimo Annuna, Davide, ma poi lo hai anche screditato. Ma quale screditato? Perché semplicemente perché si è fatta quell'operazione orrenda là. Lo hai screditato. Per carità, Davide. È molto arrabbiato con te. Ma quando mai? Tutta la famiglia Annuna, che vedrai cosa succede. Vedrai. Non ci dormirò la notte sicuramente. Guarda, è arrabbiatissima, tutta la famiglia di Annuna ce l'ha un po' con te, vedrai. Davide, dimmi. Allora, posso parlare un attimo con il dottor Parenzo? Sì, però Davide, vai. Parenzo si riserva di decidere se interloquire o no con lei. Va bene, ha deciso? No, ancora no, dipende da quello che dici. Bravo, esatto, dipende dall'argomento. Allora, senta, dottor Parenzo, le chiedo scusa. Io volevo fargli una domanda. Sì. Ma tutta questa gentaglia che vengono in Italia, tutti questi immigrati, attenzione, io vado per quelli che lavorano. Sì. Che pagano le tasse. Vado significa sono dalla parte di, vado. Sì, sono dalla traduco, parte di, io non sono razzista, per l'amore del cielo. No, per carità. Sia chiaro questo. Assolutamente. Sia chiaro, ma questi che pisciano sotto casa, questi che danno fastidio, perché non te li porti a casa tua e gli fai fare, gli dai il vitto, alloggio, anche il bidet. Li tieni tu. Anche il bidet, no? Bidet, non pisciare nel lavandino, perché io non ce la penso. Però? A pisciare nel lavandino. Però? Come però? No, dico però. No, dico però. Però che se li tenga a casa lui, e magari se sono troppi, gli dà un po' alla Boldrini pure. Ecco, allora a fronte di questi argomenti testé... Io credo di non aver offeso nessuno. A fronte di questi argomenti testé enunziati da questo signore... Non vuoi parlare, non ci vuoi parlare. La conclusione è questa. No, ci devi parlare, dai. Per contratto ci devi parlare. Per contratto ci devi parlare. Non c'è scritto. Lo metteremo. Non c'è scritto. A fronte delle considerazioni svolte da questo imbecille, aggiungo, aggettiviamo anche, usiamo... Allora a questo punto devo dare la parola a Davide. Devo dare la parola. È talmente ricca di parole che usiamole le parole, qualifichiamo le persone. A fronte degli argomenti usati da questo tizio, da questo supposto tizio, da dove chiama, chi è questo, neanche dire il nome voglio, mi riservo di non interloquire con questo signore. Ecco. Allora Davide, imbecille, è sempre in collegamento? Imbecille? Sì, imbecille, idiota, ma tanto da un emerito ignorante, che cosa ti vuoi fare? Sono ignorante, perfetto. L'ignoranza però come la valuti? Come vedi, la valuti? Vedi come degenera un attimo la situazione? Io mi sono presentato educatamente e lui adesso educatamente. Non è che ho offeso, come mica mi sono presentato, io ho precisato, tengo agli immigrati quelli che lavorano e pagano le tasse come le paghiamo noi. Davide. Il resto, sì. No, ti ha dato dell'imbecille, che ti devo dire? E ti ha dato dell'imbecille perché hai detto portateli a casa tua. Esattamente, bravo. Perché hai detto portateli a casa tua. Ma perché non se li porti a casa sua? Ancora, è la seconda volta. Parento. Perché ci deve pensare lo Stato, dice. È la seconda volta. Ma lo Stato già ci sta pensando. Lo Stato già ho capito, ma se ci pensa lo Stato perché se li deve portare a casa sua? Ma lei ha intenzione di andare avanti ancora molto? Siccome lui con questo solido argomento, degli immigrati, ma lei ha ancora intenzione di andare avanti a lungo? Tu lo fai apposta per fare audience alla radio. Ma no, grazie a Cruciani che ti tiene là, perché io se fossi al posto di Cruciani ti manderei a raccogliere i pomodori. Ma io non ci penso nemmeno lontano. Comunque mi segnalano una cosa molto interessante. La bufala di silenzio, che sento un rumore di fondo. La bufala di Libero sull'Italia che dà più soldi ai migranti rispetto ai terremotati. Prima pagina con bufala dal sapore xenofobo. Il quotidiano Libero apre questa mattina rimarcando, e qui c'è tutto un articolo che spiega perché questa sarebbe una emerita bufala. Lo trovate su Giornalettismo, mi pare. Ecco. Parlo con Radio Merda. La Zanzara. Allora ragazzi, come abbiamo detto all'inizio, è arrivato a Roma un nuovo assessore, viene dal Veneto, già la cosa è abbastanza bizzarra, devo dire la verità, cioè dal Veneto un assessore a Roma, un assessore che si occupa di tutte quelle aziende che sono allo scatafascio, sono allo schifo, l'ATAC, tutte quelle aziende piene di clientele, piene di gente messa lì per raccomandazione, diciamo la verità, cose che andrebbero chiuse, chiuso tutto e rifate, ricominciate da capo. Colomban si chiama, Massimo Colomban, il quale ha due caratteristiche fondamentali, sì, da quello che si legge. Ha organizzato una volta un convegno di indipendentisti in una delle sue residenze perché non trovavano posto. Indipendentisti? Indipendentisti veneti. Non so se la cosa sia compatibile col fare l'assessore a Roma, probabilmente sì, naturalmente. Però comunque, prima cosa. La seconda cosa che è uno che ha fondato una multinazionale, che ha fatto un sacco di soldi, e di solito i rapporti tra le multinazionali e i grillini non sono stati sempre idilliaci. Comunque, io proverei a fargli una telefonata anche per sapere, che ne so, per esempio, che squadra tifa, no? Cioè la Roma, la Lazio, oppure no, un'altra, certo, squadra. Sentiamo. Colomban? Sì. Buonasera, Radio 24, la disturbo? In questo momento sarei in una riunione. No, volevamo sapere solo 5 minuti, se ha accettato questo incarico o no, perché non si capisce bene. L'ho accettato, sì. L'ha accettato? Certo. C'è l'incarico alle partecipate, giusto? Sì, esatto. Le posso chiedere cosa ne pensa della vicenda delle Olimpiadi? Non voglio entrare in altri argomenti. No, politici. Siccome la sua azienda, leggo da qualche parte, ha lavorato per molte Olimpiadi, mi domandavo se lei era favorevole o no alle Olimpiadi, tanto ormai la decisione è stata presa. La mia azienda che ho fondato, che sì, è diventata una delle più importanti al mondo, ha lavorato in tantissime capitali. No, certo. Le Olimpiadi vanno esaminate attentamente. Cioè. Senta, un'altra cosa, la questione delle partecipate, ci sono delle patate bollenti lì, no? Cioè, lei è un imprenditore, ma tutte queste aziende in cui il comune partecipa, non bisognerebbe privatizzarle, secondo lei? Ma diciamo che vanno razionalizzate, ci sono sicuramente dei servizi che potrebbero forse essere più economicamente gestiti, diciamo in maniera o partecipativa, pubblico-privato, oppure anche totalmente privato. Ecco, certo, per esempio l'azienda dei trasporti, per esempio, è una cosa che va privatizzata, ma secondo lei? Adesso è presto per dirlo. Vanno rivoltate come un calzino queste aziende o no? Ecco, questa è la domanda. Lei fa l'imprenditore, insomma, non è che... Ma è un'affermazione troppo forte, rivoltate. Prima vanno esaminate, magari hanno... Io ho già risanato due aziende pubbliche, c'è sempre il 50% di gente eccezionale all'interno, poi c'è il 50% che non lavora, diciamo, con la stessa passione. Ma ci sono troppi dipendenti, secondo lei? Per esempio all'ATAC. Lei mi fa troppe domande in un no, momento. Per carità, ma io devo ancora prendere mano. Cioè, non la conosco. Sentiamo più avanti, certo. Sentiamo più avanti. Ma lei ha mai preso l'autobus a Roma, Colomban? L'autobus no. Qualche volta, sì, raramente, sì, normalmente si prende il taxi. No. Una volta lei ha detto che insomma, uno dei suoi obiettivi è l'indipendenza del Veneto. Ma diciamo che per migliorare l'efficienza di uno Stato, credo che insegnino tutti gli Stati federali, dall'Australia all'America alla sì, Germania, sì, lo Stato federale porta a responsabilizzare di più le regioni e quindi o le macro regioni. Basta vedere la Svizzera che è a due passi, io ci ho abitato 3 anni. Certo che ho fatto queste affermazioni e le continuo a pensare. Lo Stato federale è la cosa migliore, cioè il Veneto, Lazio, che ne so, e altri, cioè decidono per conto loro. Ma è dimostrato dai fatti, basta guardare gli Stati federali, funzionano con più democrazia, con più diciamo armoniosità tra i cittadini, quindi why not, perché no? E anche l'euro bisognerebbe andare via il più presto possibile, immagino, no? Lei sostenga o no? Diciamo che l'euro così com'è crea solo un danno ai cittadini, all'economia, alle imprese. Si devono analizzare i motivi per cui ci stiamo in questo euro e se non è conveniente credo che sia giusto fare un referendum e probabilmente chiedere ai cittadini se vogliono rimanere oppure referendum. Ma lei, Parenzo, poi tu... Io sono veneto, quindi guarda, lascia stare, io sono veneto, quindi capisco Colomban, capisco l'amore di Colomban per la sua terra e capisco anche che avere un che veneto che va a fare in Roma ladrona. Beh, questo è il punto. Ecco, lei bravo, ha mai detto Roma ladrona? Ha mai detto Roma ladrona? Assolutamente. Uno da fuori a gestire tra... però bellissimo, lo faccio dire a me, io vedo già il leone di San Marco che sventola sul Campidoglio, questo no, sì. Grazie, questo... sì, sì, sì, sì, sì, leone di San Marco che sventola sulla lupa del Campidoglio. Mi bellissimo. Di non continuare la discussione. No, no. La bandiera indipendentista su Roma! No, su, no, sì, sì, te lo dico io, su Roma! Liberiamo, vene, Roma libera, via! Arrivano i vene. Scusi, se mi sono un attimo, come dire, no? So cosa mi è successo. Mi è entrato il demonio. Scusi, Borosini, lei perché squadra fa tifo? Fa il tifo? Non posso dirlo. Ma come non può dirlo? Ma come? La squadra di calcio? Colomban, la squadra di calcio si dice. Il Milan, allora. Vabbè, ma che male c'è? Mica, quindi per i cinesi? Quindi sta con i cinesi, praticamente. Eh beh, sì. Ma che c'entra i cinesi adesso? Come? Possiamo come chiudere? Sì, una, un'ultima cosa, Colomban, un'ultima cosa. Un'ultima cosa. Quando sostituiamo la lupa con il leone di San Marco? A Roma, bellissimo, il Campidoglio, là, il leone di San Marco. Semplicemente l'assessore ha partecipato, mica il sindaco. Stiamo prendendo tutto. Scusi, Colomban. Prenderemo tutto! Scusatemi. Scusi, lei conosce l'autobus 64? No. Non sa che cos'è l'autobus, dove vada, no, dove va, dove no, non va. Ma lo conoscerò presto, credo. No, lo perché sa, è importante presto. Il 64, fondamentale il 64. Va bene. E la metro A, sa dove va la metro A? No. La metro A. Dove che va? Quante metro ci sono a Roma, secondo lei? 2, 3, 4, 5. Mi lasci prendere mano la... Non lo sa. La struttura, e quindi... Vabbè, arrivederci. Colomban, mi raccomando, portiamo... La bandiera dell'indipendentismo sulla lupa, sul Campidoglio, cambia tutto. Un po' più seri, via. Sì, non giusto, da queste scuse. Ma visto cosa mi succede? Ha ragione. Ma mi si impossessa di qualcosa, non lo so. Arrivederci. Scusi. Adesso, per carità, non è fondamentale sapere quante metropolitane ci sono a Roma, no, per carità, non è importante. C'è l'assessore ai trasporti, va bene, però devi fare l'assessore a Roma, vorrai sapere il numero, ma non così, ma io dico per iniziare, altrimenti bisogna ricominciare da capo e studiare, o no, o sbaglio, Davide, no, non lo so. Adesso è stato appena nominato, sì, però se questa tu... telefonata conferma notizie che ancora oggi erano incerte, no? Quindi questo... Sì, però il problema è un altro. Se tu vai a fare l'assessore a Roma, in Veneto, capito? Beh, per ho tanti capito, anni, appunto, che ne sa di quante ma a Roma, quanti milioni di... Ma ce sarà uno che conosce almeno il numero delle metropolitane prima di fare l'assessore? Arriva e lo vede, arriva a Termini, dice, scusate, quante metropolitane ci ma sono? Ma ho capito, mi sembra... Dai, ma io non capisco. Vai. Il diavolo parla per bocca di Cruciani. La Zanzara. A Cruciani, in un volo della Swiss Air, ho pisciato nel lavandino del bagno della prima classe. L'ho fatto per te e per Vittorione. Saluti dal New Jersey. Non era necessario, per forza parlo per Vittorio, per me poi no, per Vittorio forse gli fa piacere. Il tuo esercito, di persone ben educate, per bene. Il nostro, no. sì. Nulla a che fare inutile, con questa immondizia. Aspetta. Immondizia. Pura immondizia. Aspetta. No, aspetta niente, immondizia. Aspetta un attimo. Però immondizia. Ma che immondizia. Dove saranno andati questi mo stasera? È incredibile, eh? Il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Allora, caro Parenzo, dato che non canti più la canzoncina di Radio Padania, Allora, sentiamo, buttiamoci in questa nuova galleria dell'orrore. Varin, forza. Stavolta ti offro Varin. Senti Varin, senti. Galleria dell'orrore. Gay, perché gran parte di questi africani poi diventano, è una cosa naturale, diventi gay. Dopo un po' che sei con l'Arci, diventi Arci gay. E così sei sicuro che qualunque cosa accada non ti rimandano nel tuo paese. questo è un po' vero però, questo è un po' vero. Ragazzi, ci sono molti che si dichiarano gay per ma non come tornare. Come si fa a far passare? Ma è vero però, ragazzi, un po' è vero ma questa cosa. Ma cos'è qua. Vero? Un po' è vero. Cosa andiamo è vero? Andiamo avanti con Barine che sicuramente qualche cazzata la dirà, aspetta. Ancora di più oltre a questo? Aspetta, aspetta. Chiaro che l'africano Marcantonio, bello tosto, di 20-25 anni, palestrato, che va a ballare ciabattando tutte le sere, e ormai è qui da un paio d'anni e ha capito che sta per finire la vacanza, diventa gay, tocca il culo a qualcuno della coop lì e immediatamente, o dell'Arci, e immediatamente si iscrive all'Arci gay. D'altronde anche il Papa ormai è dalla loro parte. Però scusa, ha dei tratti comici una cosa del genere. Io innanzitutto non capisco perché questi di Radio Ku Klux Klan utilizzano la parola ciabattanti, ma io sono favorevole alla Radio Ku Klux Klan. È molto dispregiativo. Ma perché gli italiani non ciabattano? Gli italiani non ciabattano, cioè. Primo, secondo, è sprezzante, dispregiativo rispetto a persone che non hanno magari le scarpe e che quindi hanno quelle scarpe che si usano al ma no, ma è brutto. Adesso, dai. Senti, aspetta. Non li chiamo gay in questi casi, li chiamo checche, perché uno può essere gay, può avere altri gusti sessuali, ma non lo fa certamente vedere andando a vestirsi in modo strano, o tirando fuori il culetto in certe manifestazioni, o mettendosi a baciare o a fare tra cose strane al proprio lui in mezzo alla strada, signori. Beh, questo è mancanza di rispetto. Perché ci sono i gay, signori, il mondo ormai è loro, è dei gay e degli africani, ok? Non fatevi altri pensieri strani, sono loro che comandano e dobbiamo soggiacere a loro. Ma se oggi non sei gay, non vai da nessuna parte, soprattutto da Bergoglio. Veramente Bergoglio abita tutti, cioè non è che parla solo con i gay. Cioè... Ma è incredibile, veramente incredibile. Aspetta, lui dice il sesso liquido. Sì, poi vai in una discussione che non è che non gli compete il sesso liquido. Ma sai, non c'è nulla che gli competa. Aspetta. Cioè non è che non c'è niente che gli competa. La raccolta, neanche la raccolta dell'uva, che è una cosa straordinaria che io ho fatto alle volte, neanche la vendemmia gli compete, niente. Zappare la terra, pelare le patate, nulla di tutto questo, non c'è niente che lo competa. Ci sono quelli che non hanno ancora ben capito di che sesso sono. Il sesso liquido, che non vuol dire fare una scopata in una pozzanghera, vuol dire essere indecisi, vuol dire che oggi Carnelli stamattina è un uomo, questo pomeriggio decide di essere una donna e può andare all'ufficio anagrafe, che dopo un mese, chiaramente, quando lo vede arrivare, tira giù la Claire. Ma è così, signori, è così, è il futuro. Ma non è vero, poi, tra l'altro, non è vero, non è che da un giorno all'altro uno si dichiara uomo e donna e puoi cambiare così. Varin, non è così, amico mio, non è così, dai. Comunque, vuole ringraziare Bergoglio alla fine, Varin, Sempre pensa Radio Ku Klux Klan. Bravo, esatto. La lunga marcia dei gay credenti con Bergoglio fuori dalle catacombe. Ringraziamo tutti Bergoglio, noi gay, perché con loro finalmente siamo usciti dalle catacombe. Edoardo D'Asti, vai. Ciao, volevo dire che vi siete messi vicini al limite della circonvenzione incapace a mandare gli scherzi. A parte che non era affatto uno scherzo. Non era uno scherzo per niente, è tutto dichiarato. Li state utilizzando nella stessa maniera come quelli che vanno a prendere le pensioni vecchi. Perché ma scusa, amico mio, c'è un fatto di cronaca, punto e basta. E su questo noi indaghiamo, sugli scazzi all'interno sono anche pure in televisione, di una scusa, famiglia. Sono andati in televisione da del debito, ma che cazzo vuoi da noi? Oh. Le mettete alla berlina in una maniera indegna. Ma nessuno. Quale berlina? Posso ancora capirlo da Cruciani, ma da Parenzo, che fa sempre il moralista e cercava addirittura di fomentarli. No, ma scusa, ma ragazzi, ma lasciamo, Edoardo, ma non ho capito questa cosa qua. È un fatto di noi che abbiamo preso due vecchi, cosa che comunque si può pure fare. Alla radio si possono fare un sacco di cose. Possono piacere. Ma Ferrari di Radio DJ l'hanno condannato. Perché cosa? L'hanno condannato perché faceva gli scherzi al telefono. Ma ora, non lo so, ma che tipo di scherzi? Pure noi potrebbero condannarci in futuro, chissà, per gli scherzi al telefono. Ma che cazzo vuol dire? Cosa vuol dire? Non è che puoi essere condannato sino a che c'ha ragione per forza la giustizia, Può darsi pure che... Cioè, vabbè, allora se la mettiamo così... No, però scusami, Edoardo, ma io non ho capito dov'è il problema. Questi qua hanno protestato per gli immigrati, sono andati in televisione, ecco, questo è il punto. Sui giornali, protestando, ci volevano andare, dopodiché uno indaga e capisce che in realtà litigano in famiglia, punto e basta. mandare in onda questa cosa con te che fai finta di telefonare a tutte e due è indegno. Perché faccio finta? È vero? Perché faccio finta? Davvero? Scusa, non ho capito. È vero? È tutto reale, tutto trasparente. Ma guarda, da te giustamente me lo aspetto. È Parenzo che anche. Ma cosa ti aspetti? Ma che, cosa che fa sempre il moralista e chi fomentava. Ma, non, ma li fomentava cosa? Ma sono questi che dicono le cose, non noi. Non è che gli abbiamo fatto dire nulla. D'accordo. Vabbè, non hai capito un cazzo, dai. Giovanni da Novara, dai, Giovanni. Pronto, ciao Cruciani. Dimmi. Senti, anch'io ho avuto lo stesso problema di quei tipi di prima. Cioè, io avevo dei vicini di casa extracomunitari ed è stato difficilissimo convivere. Mm. È veramente difficile. Noi avevamo una situazione che era veramente drammatica. Allora? Tanto che alla fine l'ASL ha dovuto intervenire e portarseli via. Quindi, da un lato, metterli così alla gogna, sono dei poveri cristi quelli. Io ma, non chi, riesco a ma chi li ha messi alla gogna? Da soli si sono messi alla gogna? Ma lo so, però voi sapete benissimo con chi state parlando. E allora? Sono. È proprio per quello. Cioè, perché e che facciamo? Noi facciamo cosa facciamo? Gli assistenti sociali? Gli operatori sociali? Che facciamo? Siamo i parenti o facciamo quello che facciamo? Facciamo, che cosa ti aspetti dalla zanzara? Che faccia la cosa? No, non lo chiamo perché è un vecchio che non sa quello che dice. Ma a me che cazzo me ne frega a me? Questa adorata famiglia. Che sei tu, Cruciani. Poi dall'altra parte c'è Parenzo. Ma che c'entra? Ma lui guarda sente quello che dicono questi, no? È buonista dappertutto. Questa volta il suo buonismo è sparito completamente. Scusami un attimo, ma che c'entra il buonismo? Questa qua dice che sono gli extramunitati che gli rompono i coglioni per il rumore. E alla fine si viene a scoprire che questi qua sì, fanno 10 anni d'amburi, fanno qualche cena, eccetera, ma alla fine non fanno più di tanto. Sembra, che non facciano più di tanto. Non solo, ma gliel'hanno messi i parenti, i quali dicono che non è vero, al massimo fanno qualche cena. Questo l'abbiamo capito tutto, però punto, ma che vuoi? Ancora una volta per risentirli. Ma scusa, ma che mi vuoi insegnare come si fa la radio? Non ho capito. No, figurati. E allora? Ma non ho capito. Qual è il problema? Cioè, che con loro non è come sparare sull'ambulanza. Cioè, ma non è senso. Sparare sull'ambulanza. Io voglio arrivare a un punto definitivo di questa storia. Abbiamo capito che il fratello della signora ha mandato apposta lì gli extracomunitari per rompere i coglioni alla sorella e al cognato. Chiaro? Questo? Ti è chiaro anche a te, Giovanni? Capito. Sei appassionato di questa storia? No, non mi hai fatto un cazzo. Ok, pazienza. Ecco, nel mezzo ci sono questi poverini di migranti che sono vittima di questa faida familiare. Non esageriamo, adesso vittima della no, non è vero questo, vittima della faida. Il risultato è questo qua, perché quando la signora diceva salutano neanche, ma quelli c'hanno paura, ma dicono, qui ci scappa il disastro. Cioè questi qua hanno paura. Questi non c'hanno un cazzo da fare dalla mattina alla sera, diciamo. Fanno le feste, stanno con i tamburi a spese nostre. Fanno con i tamburi perché aspettano la sfida di Barletta della famiglia. Stanno lì con i tamburi per quello, cosa vuoi che staranno lì ad ascoltare questi che litigano dalla mattina alla sera? Almeno hanno qualcosa da fare, non guardano la televisione e assistono inermi, solo armati di tamburi sonori a questa incredibile storia in cui addirittura questi adorabili, voi dite anziani, io non lo so se sono anziani, ma hanno denunziato un supposto episodio di violenza migrante andando in una nota trasmissione televisiva. Si è poi scoperto che in realtà il suddetto marito della suddetta adorabile signora vuole impiccare al palo più alto, così ebbe a dire nella registrazione radiofonica La Zanzara, nella stazione radiofonica La Zanzara ieri, ebbe a dire l'adorato marito, cioè impiccare al palo più alto. Esatto. Chi? E poi la colpa è nostra. E poi la colpa è di questi che suonano i tamburi? Questi suonano i tamburi perché aspettano, allora, capito, però, come si fa in Africa, cioè questo, aspettano la guerra. Quando ci sono le battaglie lì in Africa, suonano i tamburi per dire ecco che arriva la battaglia. E però, suonano i tamburi. Scusa, devo dire su questo, però un po' i vecchi avranno ragione. Se questi qua a mezzanotte stanno lì con i tamburi, questi qua. Ma non è che stanno lì con i tamburi. Questi aspettano che ci sia la sfida, evidentemente. Sanno che prima o poi. Fermi tutti, fermi. La Zanzara è un programma della Madonna. JP Morgan Asset Management vi presenta La Zanzara. I'm a real wild one. Wild one. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. La massima della sera che io e mio amico Thomas vorremmo lasciarvi è questa: è sempre meglio avere un bel culetto caldo sulla pancia che una pancia calda sul culo. Ciao a tutti, Alessandro, Venezia. La massima di alcuni signori veneti ascoltatori della Zanzara, Parenzo. Che disperazione. Fare? Allora, ci mai sono uno che chiami per segnalare che so una mostra, un concerto, va bene, di pianoforte. Lo do per scontato. Ci sono bambini all'ascolto? Ci sono bambini all'ascolto? Avvertenza, dovremmo mettere forse un cartello a un certo punto. Ma il cartello è difficile perché è radio. No, ma un cartello come sonoro, cartello sonoro. C'è una cosa otto, attenzione, otto, con una specie di rumore strano. Comunque. No, puoi mettere fate presto, mandate via i bambini, fate presto. Quello puoi fare. Senti, allora, è iniziata la carriera di Malena la Pugliese. Questa è una notizia fenomenale. La carriera di è iniziata. Senti l'entusiasmo, senti. Ma perché scusami, se questa qua diventa, non ha la statura ancora, secondo me. Se diventa una nuova Moana Pozzi, una nuova cicciolina, cioè diventano dei personaggi. Possono arrivare addirittura in Parlamento, tant'è che questa faceva parte dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico. Cioè non è che era una che era all'Assemblea Nazionale del PD. Vabbè. Da qui alla Corte di Rocco Siffredi. Ma ragazzi, all'Assemblea Nazionale del PD non è che ci va il salumiere sotto casa mia. Ci va questa qua che era in Puglia, non so come ci sia arrivata, non lo voglio nemmeno sapere. È arrivata all'Assemblea Nazionale del PD. Ecco, io non sono nostalgico. Ci sono nostalgico. Quante persone ci sono? 1000 persone all'Assemblea Nazionale del PD? No, anche sì. Però io non sono un nostalgico. Però dice, nel PC non sarebbe successo. Nel Partito Comunista tu ricordi figure come Nil De Jotti, come Ingrao, come capito, Berlinguer. Non c'erano solo quelli, però. Non c'erano Non c'erano Mignotte. Però, ma non non che c'erano la signora... Troia, perché lei dice io sono felicemente Troia. Dice. Ecco, ma non è riferito a lei. Però questo non accadeva. Non accadeva. Puoi chiederlo anche a Luca Telese, che è un grande conoscitore della storia di quel partito. Se vuoi possiamo anche collegarci con lui e chiedere. Non c'è bisogno. Scusa, caro Luca Telese, tu che non conosci bene la storia del Partito Comunista, ti risulta per caso che in quegli anni, per carità, durissimi, la guerra fredda, i russi, i comunisti cattivi, cioè, ci fosse nell'Assemblea Nazionale del PC qualcuno che poi ha fatto una scelta di fare l'attore porno, l'attrice porno? Chiediglielo. I tempi sono cambiati, però. I tempi sono cambiati. Allora, però, iniziate, ragazzi, se avete bambini così, ma solo questo file qua, è solo quest'audio qua, è un'avvertenza che vi do. Signor Rocco Siffredi, così inaugura la stagione, come dire, la carriera porno di Malena la Pugliese. Così. Comunque, ragazzi, tra un po' Malena debutterà in doppia anale. E vi assicuro che camminerà molto meglio domani mattina. Ciao, saluto. Questo è la prima specialità. Però adesso non entriamo. Alti livelli. Ragazzi, quello. Scusa, nel mestiere, tu c'hai la tua specializzazione? Alti livelli. Hai la tua specializzazione o no? Fermi tutto, scusa un secondo. Mi stai chiamando direttore del Corriere della Sera. No, direttore, napoletano. Napoletano. È ascendita la notizia? Fate presto, voglio dirla a Siffredi, fate presto. Io non. Siffredi. Vuole rimpaginare il giornale, mi ha detto. Parlato con il dottore, col direttore, vuole rimpaginare. Ma tu ti rendi conto, però? Ma che roba è sta qua? Aspetta. Ma perché ti fa così tanto ridere? Perché la consideri una notizia, poi? Perché? Ma perché? È fenomenale il fatto che questa stava nell'Assemblea Nazionale del PD. Capito? Questa è fenomenale. Fosse stato una cosa. Su questo hai ragione. Ma è l'unica cosa. Sì, no, ecco, appunto. Su questo puoi aver ragione. Dopodiché il dettaglio di quel che andrà in ma quella che c'è, quella è la Zanzara, che c'è? Ecco. Però scusa, ma se ogni mestiere ha la sua specializzazione, tu fai giornalista, sei specializzato nella televisione, nella radio, non nella carta stampata, più a o meno. Modo, no? Sì, questa esatto, qua è specializzata nelle doppie anali. Cosa ci posso fare io? Ma è specializzata. A parte che stai dando un'informazione anche questa sbagliata, perché non è specializzata, è specializzanda. Cioè, bisogna dare il gerundio. Hai ragione. Non è specializzata. Però, non ci vuole moltissimo da quel punto di vista. Io non lo so, non ho mai. Però da questo momento in poi c'è un Siffredi più moderato che si rivolge addirittura alla madre. Alla madre, tale Francesca, la madre di questa signora. Ma quella sarà disperata, ragazzi. Ma non è vero, pare di no. Aspetta, no, è felice, senti, champagne senti, quella. Senti. Salute alla mamma. Come si chiama tua mamma? Francesca, hai fatto una figlia top. Ne devi essere orgogliosa perché rappresenterà l'Italia e gioia del Colle. Rappresenterà gioia del Colle. Beh, saranno contenti o no gli abitanti di Gioia del Colle, secondo te, Parenzo? Ma io penso più, gli abitanti non lo so, io penso più alla madre che si sente che è lì a casa, in famiglia. Dai, ragazzi. Siffredi dice anche che Renzi vedrà, si rivolge pure a Renzi, è per questo che è interessante la cosa, si rivolge a Renzi, senti. Anche questo mi pare eccessivo, senti. Però fai tu, ormai. Senti. Fammi vedere almeno mezzo, cioè fino al ginocchio. Fino al ginocchio. Fallo per Renzi. Fallo per Renzi. Che dici, Renzi lo vedrà sto film? Oh, fermati, mannaggia a te. Lo vuoi che lo veda Renzi il film? Sì. Più Renzi o più la donna sua, come si chiama? Come si chiama? La Boschi, no. La Boschi hai detto tu, io dicevo la moglie. Non so come si chiama la moglie, sì. Lo vedranno insieme. Oh, divertitevi, io ci ho messo tutto quello che potevo. Prossimo magari ci faccio un pensierino pure io. Signor Siffredi, signor Siffredi. Io non ho detto niente, ha detto Siffredi, ma io l'ho detto io, Parenzo, non ho detto niente. Tutto Siffredi ha fatto. Comunque io farei una telefonatina, abbiamo recuperato il numero, alla sindaco di Gioia del Colle, che dici? Sì. Per capire se è imbarazzato, se non è imbarazzato da questa cosa. Il primo cittadino di Gioia del Colle, come si chiama? Donato? Donato? Donato da Varese, no, quello è un altro. Lucilla, Donato Lucilla. Boh, non so, perché tu, se tu fossi il sindaco di Gioia del Colle, saresti contento che la tua città viene associata alla pornostar Maleno o no? No, non sarei contento. Sarei contento se la mia città venisse associata alla medaglia d'oro alla resistenza, ad esempio. Sarei contento se venisse associata alla nascita di qualche talento, di qualche, no, di qualche artista, magari. Ma sei un artista a modo suo, no? Cioè, che perché? Ma non è un artista. Ragazzi, se vi piace così, ma sicuramente è un artista, ma insomma, fate voi, ragazzi, non lo so. Pronto? Pronto? Sì? Sindaco? Sì? Sì, buonasera, qui Radio 24, salve. Sì, salve, buonasera. La disturbo? No, perché? No. Senta, volevo sapere una cosa, sinceramente, lei è contento che Gioia del Colle in questi giorni sia venuta agli onori delle cronache per la vicenda della signora pugliese, Malena la Pugliese? Lei la conosce, no, immagino? Sì, diciamo, conosco la storia, so, insomma, anche conosco lei, ma diciamo non è che è così piacevole che Gioia sia sotto i riflettori per questi motivi. Cioè, Gioia, lei si vergogna un po', diciamo la verità, come sindaco? Un po' mi dispiace. Sì, è dispiaciuto per questa cosa qua, ma lei dovrebbe essere contento, cioè viene citata Gioia del Colle anche in Ungheria, cioè, anche no? Scusi sindaco. Siamo a livello di celebrità. Scusi, Gioia del Colle è un po' penalizzata da questa cosa qua, dice. Sì. Quanti anni hai tu, Donato? Io ho 36. 36 anni? Hai mai visto un film porno? Hai mai visto un film porno in vita tua? Ma, diciamo, cosa ha a che fare con l'utilizzo del corpo, una cosa che noi, diciamo, personalmente non condivido, perché è un, bravo. Diciamo, un degrado dell'utilizzo del un corpo. Un degrado, bravissimo. Che non piace. Mettiamo anche delle belle multe per quelli miserabili che vanno a prostitute nel suo, delle belle multe con foto. Sì, bravissimo, questo sindaco mi piace molto. Multe con foto. Lei vuole mettere le multe ai clienti delle prostitute, sindaco? Speriamo. Diciamo che anche questo non sarebbe un'idea malvagia. Bravissimo. Perché poi sul discorso della prostituzione per strada, anche qui è uno sfruttamento non solo volontario del corpo, ma addirittura uno sfruttamento imposto. Pure lei, sindaco, a 36 anni, l'avrà visto un film porno in vita sua? Ma che c'entra, l'ha visto? A 36 anni, l'ha visto un film porno o no? L'ha visto? Non citate le estreme moralisti, scusate, mi citate semplicemente di dire che si crea un business, un modo di fare guadagno sul utilizzo del corpo che noi non condividiamo. Ma noi chi, cioè, poi? Lei non condivide? Noi chi? Personalmente, cioè noi chi? Noi chi? Io personalmente. Ah, lei? Sì. Parla come hotel, ma però va bene lo stesso. Però va bene. Scusi, sindaco, lei l'ha visto un film porno alla sua età o no? Ma ancora? No, ma mi dica, l'ha visto o no? Mi dica di sì, perché è evidente che l'ha visto anche lei una volta, su, perché se no l'ha visto il film porno o no? Ma certo che l'ha visto! Ma praticamente c'è tanto in quella pornografia in TV che non è che si può evitare. No, lasciamo perdere, non vogliamo essere generici. Lei fa il sindaco, giovane, 36 anni, deve essere sincero. L'ha visto per una volta un film porno o no? Guardi, vedete, questo sono veramente di due cose, se volete mettere in imbarazzo. No, imbarazzo, l'ha visto il film porno, ma è normale che uno l'abbia visto. A 36 anni, se non l'ha visto, sarebbe strano. Un film porno l'ha visto, ne avrà visti 20 almeno, 30. Però io non le faccio dire 20 o 30. Almeno mi dica una volta ho visto un film porno, o no? No, sono situazioni che sono tolle, nel senso che forse per lei abolirebbe la pornografia. Se dipendesse da me, non è che abolirei la pornografia, io non ne fruisco, diciamo. No, dunque, non ha mai visto un film porno in vita sua. Uno non riesce a dire che ha visto un film porno in vita sua. Guarda che non si deve dimettere se lo dice. Dica di sì, perché questo non si deve dimettere se dice che ha visto un film porno in vita sua. Non si dimetterà, non si preoccupi. Dica di sì, questo non la molla più, glielo dico io. Gli dica di sì, lo accontenti e se lo vada a vedere anche. Dai, questo le do questo consiglio, guardi, perché del film vado a vedere. Vabbè, sindaco, arrivederci. Mamma mia, stia bene, 36 anni, sono più moderati di Forlani. Stia bene, amico mio, stia bene, bravo. Arrivederci. Vabbè, questo si vergogna un po', eh. Si vergogna un po' il sindaco. Arenzo, che stai facendo? Non ho capito. Oh, stavo leggendo. Ma che stavi leggendo? Che cazzo dici? Stavi leggendo? Stavo leggendo adesso un articolo di David Grossman sulla Repubblica. Marcello da Roma, dai. Il mio amico Shimon Perez, vabbè, l'uomo che dai, inseguiva su, ma il futuro. Ma dedica di un posto cazzo di trasmissione. Su, Marcello da Roma, dire, dai, forza. Sollevare le sorti di questo programma caduto nell'inferno ma della pornografia. Non dire cazzate, dai, Marcello da Roma, quale pornografia? Non dire puttanate, Marcello da Roma. Nell'inferno della pornografia. Vai a cagare, vai. Nell'inferno, nell'inferno. Dire stronzate, Marcello da Roma, dai, le altre la fanno la pornografia, noi ne parliamo. Marcello, vai. Ciao, ciao a tutti. Io volevo intervenire circa la situazione della signora Paola. Posso capire il dramma della signora, perché mi è capitato di vivere una settimana a casa di mio cugino che c'ha una cooperativa di immigrati sopra casa, non giù, quindi proprio sopra, ed è una cosa veramente proprio da non credere. Che succedeva? Mi è capitato di... Che succedeva? Ma rumori fino a notte fonda, ma di tutti i tipi. Poi? E poi... Ma i rumori ci sono in tutti i condomini, i rumori. I ma rumori ci sono in quasi Roma, no, tutti i condomini. È vero anche che i rumori... nel mio ci sono i però rumori. Però la gente non sopporta più... La gente non sopporta i rumori dei negri. Che ti devo fare io? Ma scusatemi, ma... i rumori dei negri. Poi posso dire che ha preso fuoco alla cucina, diciamo, perché loro non sono abituati, secondo me, forse, a utilizzare anche questi strumenti, perché sono abituati a vivere nelle case. No, ti dico che è capitato questo, scusami. Ma se è capitato è capitato, dai. Ha parlato lui che vive, volte, ha parlato lui queste... che invece viveva nella, i suoi nonni erano nelle grotte, dai, su, ma perché deve dire queste stupidaggini razziste nelle capanne? Io non sono, ma neanche razzista, della, ma neanche nel Robinson Crusoe si chiamava il proprio servo Venerdì, allora, cioè, lì sì, si chiamava Venerdì, però. Sono anche accoltellati tra di loro. Vabbè, ho capito, ma perché ma scusa, ma se la gente scusa, però devo dire, se la gente questi due ma la gente io non cosa? Voglio dare ragione a quei due perché evidentemente è un litigio all'interno della famiglia. Però non è bello che ti mettano sotto no, casa famiglia, sotto casa 7-8 extracomunitari che hanno tempi diversi, modalità diverse e ma con attributi diversi tra l'altro non possono neanche non è devo loro. Dire la verità, se fossero i miei nonni sarei un po' incazzato pure io che mi mettono 8 extracomunitari sotto casa al piano di sotto. Poi ma me la piglio, ma non è che vai in televisione a denunziarlo, vai dai tuoi nonni o da chi è no, proprietario dal fratello della... diciamo dai parenti gli dici sì, vai non a lo culo. So appunto dai tuoi parenti direttamente gli dici guarda perché lei, ma non è che vai in televisione e denunci gli immigrati, denuncerai il tuo parente che affittata, no? Non no, i... ma io me la prendo anche con le cooperative, perché queste cooperative ma che le cooperative fanno il loro lavoro, non se ne fregano sì. Proprio lucrano, fregano. Lucrano sulla cosa, lucrano sull'immigrazione, aiutano, aiutano laddove fanno un intervento mai? Di prima accoglienza, scusa. Spesso non ci sono, ti posso assicurare. Va bene, Roberto Reggio Emilia, vai. Roberto Reggio Emilia, dai. Dimmi, Roberto. Ciao. Dimmi. Sì, vai, aspetta, non ti sentiamo più, fermo che ti richiamiamo, fermo. Dacci oggi la nostra zanzara quotidiana. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com. La zanzara. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Tagliare un pezzo di pelle inutile sul pene di un bambino, perché madre natura adesso ha fatto anche pezzi di pelle inutili, bah, mi è nuova. Non è che forse quel pezzetto di pelle serve a proteggere il glande? No, ma far l'amore con un uomo circonciso per una donna è meglio? Beh, sono domande fondamentali dopo le affermazioni ieri sera di un signore, amico signore. Di Parenzo, che non devo più, di cui non devo più ripetere no, il cognome. No, lo devi ripetere. Signor Annuna. Dottor Annuna, che è un grande professionista. Ho capito, però ieri si ha parlato di circoncisione, non c'è niente di male. Gli hai chiesto e ha risposto. E ma ha fatto benissimo, ha fatto ha benissimo. Ha detto, ma puoi chiedere anche a qualunque sessuologo, sì? Che fino a prova contraria... Più pulito e più forte, ha detto. Pulito e forte. Esatto, è una forte perfetta pulito, sintesi. Forte perché pulito. Effettivamente sì. La circoncisione comporta necessariamente maggiore piacere nel attenzione alla donna. Maggiore piacere alla donna, attenzione assolutamente. Allora, mi hanno scritto oggi aspetta, un tizio mi ha scritto ho analizzato scientificamente il pene umano determinando che la circoncisione danneggia la qualità dell'accoppiamento. Quel peduncolo di pelle permette il rovesciamento del glande che sollecita meglio il punto G, posto nella parte anteriore della vagina. Tutto scientifico, nessun termine volgare. La femmina soddisfatta favorisce la prosecuzione della specie. La pulizia dello stesso viene garantita passando delicatamente le dita, meglio se femminili, intorno al glande con acqua e sapone. Il popolo ebraico si rifà a un'antica tradizione quando l'igiene personale era difficile da mantenere per condizioni di vita e ambiente. Cioè, lui dice che sono cose passate, vecchie queste robe qua, non sono ancora attuali. Lui è vecchio. Ma dai, su. In testa sua lui è vecchio. Quando Dio fa le cose non gioca a dadi, ha aggiunto. E credo che sia una sintesi perfetta. Allora, ragazzi, gli evasori fiscali, i ladri ci sono dappertutto. Però sentite quello che... Poi uno dice che è razzista, poi uno dice che ce l'ha coi rom. Ci sono dappertutto gli evasori fiscali, i ladri, eccetera. E rom poveri con 6 milioni di euro in banca in rapporto all'Europol. Sai che mi sono dovuto mettere gli occhiali? Purtroppo non ci vedo più un cazzo, ragazzi. Eh beh, c'è per, 50 vedere, anni, per vedere da vicino. Forse solo quello che non funziona più. Che devo fare? Hanno ottenuto casse popolari o sussidi. Molti, ma ritirati, vai in pensione. Ma vai punto. A fare il culo. Tu la ma ritirati, molti ritirati. Sono pregiudicati. Aspetta. Per il fisco sono quasi nullatenenti. Vivono nei campi rom di Torino, Chivasso, Massa Carrara, cioè Italia. Alcuni hanno ottenuto una casa popolare, altri un sussidio. Molti sono pregiudicati. Ciò che li accomuna è una ricchezza considerata spropositata. Una famiglia di almeno 15 membri aveva accumulato quasi 4 milioni di euro. La cifra sale a quasi 6 milioni se si considerano tutti e 22 i soggetti elencati nel rapporto dell'Europol. Ragazzi, lasciamo perdere. Roberta, Roma, dai, Roberta. Sì, vai Roberta, dimmi. Sì, poi ciao, c'era buonasera, Roberto, scusami. Poi c'era Roberto da Reggio Emilia. Dimmi Roberta, cara. Niente, basta con questi migranti, per favore. Che vuol dire basta con i migranti? Dillo a Parenzo, no? Basta. Parenzo, basta. Vuoi sapere, Parenzo, cosa devo fare io per campare? Dillo. Sentiamo. Posso? Sì, è certo, la verità. I pompini. Ma come i pompini? Scusami, Roberta, non ho capito. Ah, è incredibile. Cioè, tu per campare certo. Fai i pompini, cioè non riesci, oddio, ad arrivare alla... Un momento, voglio precisare. Non è che faccio solo quello, nel senso... Però arrotondi, in tutti bravissimo, i sensi, arrotondi. Bravissimo. Ma come bravissimo? Ma ti pare che una chiave... A un momento, io non mi vergogno a dirlo. Aspetta, come parla meglio, se no non si... Ti vergogno a dire che magari guardi... Aspetta, che si sentiva male. Scusa, che cosa hai detto? Non ti vergogni a dirlo? Assolutamente no. Non mi vergogno a dirlo, perché purtroppo sono costretta a farlo. A differenza degli immigranti che invece vogliono il menù, vogliono il wifi. Aspetta, però, scusami, Roberta. Roberta. Poco, ma non importa. No, Roberta, accostati meglio al telefono. Non io so che c'hai poco che scatta. A questa testimonianza. No, perché credi poco? Così. Non ho capito. Ci credo poco. Ma che vuol dire, Roberta? Sta dicendo che fai i pompini perché per arrotondare? Perché non ci dovresti credere? Non ho capito. Parenzo, è la verità. Parenzo, mi puzza è un po' verità. Questa storia, eh? No, ma che ti puzza? Ma scusa, ma lo sta dicendo perché ti dovrebbe puzzare? Non ho capito. Mi puzza un po' da telefonata così, un po'. Ma che cosa? Furbetta. E ma non mi vergogno proprio a dirlo, purtroppo. Beh, furbetta, ma non ho capito, ma furbetta. quante volte fai i pompini a settimana? Ecco l'altro che indaga. Ma scusa, ma una dice ha che fai... ragione a indagare. Guarda, io e poi ti devo dire che non è che ho poveracci. Voglio dire, anche gente che paga. Beh, paga cioè, bene. Quanto fai a pompino? Dipende chi ho davanti. Cioè? Cioè, nel senso che se vedo la persona che può, che è più disponibile, posso chiedere una cifra e so che pagano, altrimenti chiedo a seconda della persona. Ma ti fa schifo o no? No, assolutamente no. Beh, insomma, questo è particolare, non ti fa schifo? Assolutamente no. Cioè, un po' ti piace allora? È un po' un'arte. No, vabbè, è un'arte. Però da di chi parla? No, però sta dicendo... No, però capito, allora, di scusa, Parenzo ha ragione. Parlando? Dice, allora, stiamo parlando con una signora che non si sa come, senza alcuna... Allora, con Parenzo, nessuna... Parenzo, io ho scoperto un'arte, ragazzo. Oltre che ci guadagno... Ma signora mia, se a lei piace fare quello che ha detto, arte, telefonare... L'arte e dirlo di in diretta radiofonica che le piace fare questo mestiere, ma non lei poi mestiere. Si lamenta dei migranti. Arrotonda, ma di che detto, cosa arrotonda. Parla? Non è un mestiere, l'arte ma di che cosa parla? Di merda che siamo. Viva Felice, lui si incazza. Lei si incazza perché vede gli immigrati pagati 35 euro ed è costretta il per menù. Il menù, no, perché a loro non gli va bene mangiare il riso, le cose. No, che scherzi. Si incazza perché dice io per campare, però scusami, non è che è colpa dello Stato se tu non. Appunto. Se tu non arrivi alla fine bravo, del mese, bravo, meno male. Cosa appunto. È colpa dello Stato? Che cosa dovrebbe dare? Darti i soldi lo Stato per non farti fare i pompini? Scusami. E innanzitutto un figlio, e comunque aiutarmi in qualche maniera. Ho capito, ma d'accordo, ma non ti aiutano in che senso? Con un figlio senza lavoro non ti aiutano, zero? No, io comunque lavoro la mattina, ma siccome sono anche tenuta tra parentesi in nero, ok? In nero, quindi non ho busta paga, non ho nulla. Tu, però scusami, Roberta, siccome Parenzo non ci crede. Ma no, perché chiama? Dice Parenzo, che gli... caro, che ti devo dire? No, però lei fa un discorso molto semplice. Io per arrotondare faccio i pompini. Ma beh, che dobbiamo fare? Ma quanto guadagni al mese? Quanto fai con questa arte che... Esatto, l'arte, esatto. Ma guarda, all'incirca posso arrivare a 800-900 euro. 800-900 euro, ovviamente tutti puliti, naturalmente, solo di quello. Certo. Cioè, certo. Grazie a questa roba qua tu riesci, che ne so, l'affitto lo paghi o c'hai casa certo, tua? Certo. No, casa mia, pago l'affitto. Ma è gente pulita oppure dove le prendi? Metti le inserzioni, metti gli annunci, che fai? No, poi è un passaparola. Ah, un passaparola. e ride, vabbè, comunque. Vabbè, ciao Roberta, ciao. Ciao. Ah. Beh, ragazzi, che ti devo dire? Roberto Reggio Emilia, intanto, vai Roberto, dimmi. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Vai. Forte e chiaro, una purtroppo. Riguardo Mussolini e Hitler. Ecco, vi siete mai chiesti se la guerra l'avessero vinta loro cosa sarebbe successo? Non lo so, per il disastro. Allora, sì, tante volte purtroppo me la sono chiesto. Lo dico io, noi invece di dover mantenere tutti questi extracomunitari, ecco, ognuno di noi, compreso Parenzo, avrebbe 10 extracomunitari o 10 negri che lavorano per lui. Aspetta. Con meno problemi per lo Stato e meno problemi anche per loro. Cioè, sta teorizzando lo schiavismo. Allora, tu stai dicendo praticamente che se avessero vinto così, Hitler o Mussolini, in diretta radiofonica, Hitler così, o Mussolini, avremmo gli extracomunitari come schiavi, in sostanza. Che paese, ragazzi. Beh, non qui, anche lasciandoli là in Africa o da dove vengono loro. Però, cioè, sarebbe stato un mondo. Casino nel mondo. Ci sarebbe stato un mondo migliore, secondo te? Certo, sì. No, adesso hanno fatto un sacco di errori, specialmente. Beh, sì, un po' di errori. Quello che hanno fatto con gli ebrei, e poi aprire tanti fronti di guerra. Però scusami un attimo, con gli ebrei veramente hanno fatto degli errori, secondo te? Perché se tu teorizzi che il mondo sarebbe stato migliore, con gli ebrei non ci sono andati leggeri, signori Hitler e Mussolini, o no? Appunto, quello è un errore che hanno fatto e io lo condanno. Cioè, però... quelli un errore, con i negri no? No, i negri li faceva lavorare, cazzo. Secondo te i neri sono fatti per lavorare come schiavi nostri? Ma no, ma non solo i neri, ma anche, non so, i cinesi, magari. I cinesi. Cioè, ormai è incredibile come la gente non si vergogna più. Cioè, la cosa che a me spaventa è che ormai la gente non si vergogna. Scusa? Cioè, una volta queste robe qui uno le diceva nel silenzio dei bar, dei peggiori bar di Caracas, no? Scusa, Roberto, cioè, ma che cosa ti piace di Hitler? Che cosa ti piace di Hitler? Invece ora no, è tutto così. Hitler, mi piace il fatto che sia riuscito a risollevare la Germania dopo che era stata presa a calci nel culo dalla Francia e dall'Inghilterra. Mamma risollevare mia. La Germania, amico mio, è finita come è finita 50 anni fa, 60 anni fa. È finita malissimo. È finita male, Non ha risollevato una beneamata mazza. Cioè, che cosa ti piace di Hitler? Per esempio, 6 milioni di ebrei morti, ci credi? No, sì, senz'altro. Quello è un errore che ha fatto. Un piccolo errore. E gli altri morti, che ne so, i gay ammazzati? Ma tutti quelli che ha ammazzato, è un errore, è stato un errore. Ma era quello Hitler, ammazzava la gente. Molti altri ammazzavano la gente, ma soprattutto Hitler. Vabbè, Roberto, ciao, ti saluto, va, ciao. Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di vino. Di vino. Se noi diciamo Elo. Parenzo, non te l'aspettavi, non te l'aspettavi. Ma è un crescendo. Aspetta, però devi stare zitto stavolta. Ti voglio silente. Ti prego, ti voglio un po' silente. È un perché crescendo, sennò altrimenti. No, è importante perché il 4 dicembre. Il 4 dicembre è stato. No, niente. Il 4 dicembre è stato fissato il referendum, come sai, sì o no. E io voglio il primo vaticinio del divino sul referendum in diretta dal Marocco, il divino Otelma. Buonasera divino, vi salutiamo e benediciamo da Essaouira, patrimonio UNESCO. Ottimo, vedi, grande cultura, grande conoscenza di luoghi di tutto il mondo, caro divino. Io ti ho dato una data, il 4 dicembre, già la sapevi sicuramente perché sei molto informato. Vince il sì o vince il no? Sì. Dai nostri ci siamo studi. Già pronunciati più volte. No, vabbè, io voglio sapere circostanze. Sì. Quindi gli italiani, almeno quelli addentro alle cose della politica, sì, sanno certamente, certo, qual è il nostro pensiero. No, però siccome c'è una data, vaticinio, siccome c'è una data, le cose cambiano con la data, no? 4 dicembre. Sì, ma non cambierà il risultato finale. Noi l'abbiamo già detto. Vabbè. A Libero l'abbiamo detto, sì, a varie trasmissioni, certo, Campus, certo, ad Affari Italiani, a molti altri, vale a dire, sì, che certo, naturalmente sì, la sconfitta del Duce Puffo, Renzi, il più grande pallonaro d'Italia in, sì, questa fase, sì, contingente, è scontata. Resta soltanto sconfitta da, cioè, vince, chiarire, no, vince, no, quale sarà la percentuale, ecco, tutto lì. Ma per il resto, avendo il Duce Puffo contro la grande parte del popolo italiano, sì, vince, ed essendo ormai inseguito ovunque vada, folle inferocite, lo si è visto a Catania, lo si è visto a Napoli, si è visto come le stesse feste dell'unità sono andate deperendo e svaporando. Non mi pare proprio. Però. E si nota come le telecamere dei servi ruffiani, dei asserviti a Palazzo Chigi, sì, lo inquadrano. Certamente i nostri intelligenti, sì, ascoltatori si, sì, saranno accorti che le telecamere inquadrano, sì, soltanto lui in uno spazio ristretto. Come vero, mai non inquadrano le piazze? Ma insomma, non è vero. Facile. Come mai la risposta, ci sono queste ottime droghe sono in Marocco? O vuote, o semi vuote, o ripiene di gente che urla contro, vabbè, di lui. Divino, allora, questa si è fumato un chilo di narghilè. Il Puffo è nella merda, una merda, ecco, direbbe Dante sesquipedale. Una merda, quindi, però scusa Divino, c'è come da capire, Dante, aspetta, e dei dal culo, sì, c'è trombetta, e si parla del, e si parla della scimmia qui dal Marocco, nelle scimmie dal Marocco, dalle quali proviene. La scimmia collegata, a parte che non è in Marocco, sicuramente. Come è possibile che una radio, aspetta, che ha pur sempre un certo prestigio, non è in Marocco, possa tollerare sicuramente, che al suo interno, al ben, alberghi un essere viscido, aspetta, aspetta, aspetta, Divino, spaventosamente ignorante. Aspetta Divino, allora, c'è, dunque, c'è da decidere solamente, tu dici la percentuale del no, vabbè, quello. Beh, però. Solo. Beh, la percentuale. Solo. Senti una cosa, la invece. Del, sì, Duce Puffo, noto, sì, anche come Coniglio Ridens, sì, il più grande pallonaro d'Italia, è scontata. È scontata. Resta semplicemente, se lo scrive, poi vanno a casa a prenderlo quel forcone se vince, sì, per la caso. Percentuale. Su questo più avanti ci pronunceremo, ma tutto ciò effettivamente ha scarsa, sì, rilevanza, perché se poi si dice che il referendum del Duce Puffo è destinato naturalmente, sì, certo, a non sortire, sì, l'effetto che lui si prefiggeva, il discorso, capite bene, che è allora, belle più. Allora, cose che una, già però sappiamo, in 30, che oggi tutti hanno detto, ma in 30 secondi, però veramente in 30 secondi, Divino, sì, la Raggi ha nominato due assessori nuovi, eccetera, eccetera. Durerà per tutta la durata della legislatura, là, de come cavolo di, si chiama, si, ma chiama, anche su questo ci siamo già pronunciati, cioè, ma non, non ci interessa, ma dici quello che è il vaticinio. Sul fatto che io tra 30 secondi la mando a fare in culo, si è già pronunciato o no? La 30 secondi la mando a quel paese in svariate occasioni. Virginia è stata eletta, Virginia, come da noi vaticinato, ma, noi siamo molto lieti di ciò, e diciamo pure che i romani sono ben fortunati ad avere un sindaco che finalmente non ruberà, che finalmente non sarà gli interessi dei palazzinari. Vabbè, questo però è un comizio. Ma è tutto detto in campagna elettorale, palesemente collusa con la mafia, vabbè, con ma la, è tutto scritto da mesi, giorni che la gente dice da mesi. Ma la dura 4 anni ancora o no, sta Raggi? La Raggi durerà molto a lungo, molto a lungo, a scarsa importanza se poi duri 3 anni e mezzo o 4 anni, no, insomma, se ma questo fa i vaticini, scarsa importanza. Certamente coloro che pensano di ripetere con la Raggi, e naturalmente, sì, ci riferiamo al Duce Puffo e ai suoi ruffiani, pensano di ripetere con la Raggi la stessa sporca operazione che hanno tentato con Ignazio Marino, cioè una bella pugnalata alle spalle. Le droghe ci sono, ma non è in Marocco, dai, qua dietro. Perché la Raggi non farà la fine di Marino. Bene, no, ok, grazie Divino. Che farà la fine di Marino. Grazie Divino, grazie Divino, grazie dal Marocco, dal Marocco, ma grazie. Marocco? Ma quale Marocco? Sarà qua dietro, dai, a Gallarate sarà. Vabbè, ragazzi, dobbiamo chiudere. Meno rallegrati male da queste previsioni. Non vedono, meno vince male, no, eh? E la Raggi resta per 4 anni. Arrivederci, grazie. Io vi saluto, vi mando a fare in culo e finisce la storia.